Salve. Salve. Futura pescatori, giusto? È il suo nome di battesimo? Sì, sono io, ma dove mi trovo? Scusi, lei chi è? Ma come dove si trova, signorina? Lei non è futura pescatori, deceduta il 4/4/2023 per morte autoinflitta tramite impiccagione? Oh Gesù, ha ragione. Sì, certo, sono io, ma quindi sono morta? Questo è il paradiso. Ma lei chi è? Certo che è morta, ragazzina! Se si getta una corda intorno al collo e salta dalla sedia, pensa davvero di svegliarsi in camera sua il giorno dopo, pronta per andare al lavoro? Ma cosa avete nella testa voi giovani? Allora. Finiamo di sistemare i dati della sua cartella, così la lascio andare, che c'è una fila di gente in attesa dietro di lei. Conferma nome e cognome? Bene. Nata a Torino il 20/11/96. Impiego? Come scusi? Guardi, Impiego? Qual era il suo impiego? Studente, lavoratore, disoccupato. al massimo studentessa, Ma lavoratrice. chi se ne frega, lavoratore, lavoratrice. Insomma, lei che faceva nella vita? Come occupava il suo tempo? Cosa devo barrare? Allora, qui ho studente, lavoratore, disoccupato, di cui in cerca di impiego, sotto sussidi, altro. Mi ero appena laureata. Brava! E quindi in cerca di impiego. No, in realtà non stavo cercando lavoro. Guardi, lei mi sta facendo veramente perdere la pazienza. Mettiamo disoccupato e basta. Ma poi perché non stava cercando Mi lavoro? scusi, ma lei cosa gliene frega? Mi dice perché queste informazioni dovrebbero essere rilevanti? Mi sono appena ammazzata, lei cosa importa se stava cercando lavoro o no? Ma soprattutto lei, chi cazzo è? Dove mi trovo? Senta, si calmi, eh? Queste informazioni le dobbiamo raccogliere per le indagini statistiche, per sapere chi sono le persone che muoiono, a che fascia sociale appartengono, quali sono le cause di morte più diffuse. Poi vede, nel suo caso specifico, insomma, è importante capire perché la gente decide, insomma, perché alcuni decidono di farla E finita. questo cosa avrebbe a che fare con il mio impiego, scusi? Ma come, cosa avrebbe a che fare? Qui si dimostra una ragazza un po' superficiale, mi scusi. Mettiamo che lei perda il lavoro e si ammazzi. Secondo lei non è rilevante segnalare che una persona si è uccisa per aver perso il lavoro? Oppure mettiamo, come nel suo caso, che lei abbia finito gli studi e debba affacciarsi al mondo del lavoro, che adesso per voi giovani, e questo le lo devo riconoscere, è difficile, competitivo, precario, insomma, non è facile. Nemmeno per i più qualificati. Mettiamo che lei cade in depressione per le difficoltà di avere 20. Quanti anni ha lei? 26, quasi 27. Ecco, 27 anni nel 2023. E decida di uccidersi. Secondo lei non è importante che io scriva su questo foglio che una bella signorina come lei, nel pieno della vita e della gioia di vivere, si sia tolta la vita per via delle difficoltà del mercato del lavoro? Ma lei lo sa quanti ragazzi della sua età mi arrivano anche più giovani? Lo sa quanti ne vedo come lei? E allora, secondo lei, non è giusto che io annoti le cause della morte, eh? Su via. Andiamo avanti. Malattie mentali, problemi neurologici, disturbi dell'apprendimento, disturbi della personalità? Ma forse un po' di Ma depressione. come forse? Scusi. La depressione non è una cosa così che uno forse ce l'ha o forse no. La depressione è una malattia seria, non è che uno è triste e ha la depressione. Le è stata certificata la depressione? No, certificata no. Ma sono sicura, sono sempre stata un po' depressa, solo che non sono mai andata in cura da nessuno, perciò non me l'hanno certificata. E comunque, guardi, che la definizione diagnostica è un fatto complesso. Le psicopatologie hanno eziologie in parte sconosciute agli stessi psichiatri che stilano i manuali. Le esperienze familiari e il contesto sociale favoriscono l'emergenza di sintomi depressivi. La sua domanda mi sembra un po' riduttiva. Ah, ma signorina bella, io qua non posso scrivere un trattato di sociologia. Il modulo mi chiede se il soggetto presenta disturbi mentali e visto che questa depressione non le è stata certificata, devo scrivere di no. Lei ha ragione, il contesto sociale, la famiglia, poi questo non è neanche il mio campo, guardi, onestamente. Ma purtroppo ci sono delle procedure, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora qua dice, ah, ecco, contesto sociale, contenta? Allora, punto 1. Fidanzato ce l'aveva? Oh, No. ma si figuri, bella Ma com'è. come, scusi, ma come si permette? E addirittura faccia un sorriso che se ride è più bella, sa? Comunque, fidanzato o no? Ma quindi neanche marito, convivente, insomma, niente? Sì, un convivente, sì, ma non era il mio È ragazzo. un coinquilino, quindi. No, no, io mi riferivo a qualcuno con cui ha una relazione. Beh, sì, abbiamo una relazione, una specie di relazione, cioè avevamo, ora sono morta chiaramente. Beh, mi faccia capire, lei conviveva con un uomo con cui aveva una relazione ma non lo considerava il suo fidanzato? Sì, cioè no, non lo so. Se vuole una risposta mi dia prima una definizione di fidanzato, allora. Vede, lei ha una definizione contrattuale dell'amore. Quali sono le condizioni necessarie a considerare delle due persone fidanzate? La monogamia, dirà lei. E dunque tutti quelli che stanno insieme si tradiscono, smettono di essere fidanzati? No, non è quello, semplicemente non se lo dicono. Serve un'altra definizione. La monogamia di facciata? Oh, l'amore. Certo, l'amore, ma se due si amano e vanno a letto con altra gente, non sono fidanzati? E se non è la sostanza, allora è la forma, il discrimine, l'anello, le foto insieme, il conto nevrotico dei mesi che passano, insomma, che definizione di fidanzamento dà il suo manuale? Ma lei comunque si faccia gli affari tuoi, scriva singola e andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Amici ne aveva? Sì. Meno male, almeno questa è stata facile. Famiglia? Che vuol dire famiglia? Mi sta chiedendo se avevo una famiglia o se eravamo in buoni rapporti. No, dico, con la famiglia tutto bene? Vedo che ha entrambi i genitori vivi, un fratello. Vi volevate bene, sì? Insomma. Litigavate? In passato, ultimamente andavamo abbastanza d'accordo. Bene. Rapporti familiari stabili. Dipendenze? Lei fumava? Sì. Beveva? Beh, sì. Ma non ero mica un alcolista, bevevo quando uscivo la sera. Capisco. Droghe no, quindi? Non saprei, dipende. Quali droghe? Come dipende? Lei faceva uso di sostanze stupefacenti? Canne, fumo, hashish, cocaina, eroina? Non sono proprio tutto uguale. Ma che sta dicendo? Si faceva le canne sì o no? Qualcuno ogni tanto per dormire. No, Gesù. Cioè mi sta dicendo che lei si drogava per dormire? E non lo considera uso di sostanze stupefacenti? Io la segnalo come tossicodipendente. In realtà anche i sonniferi sono droghe, anche gli psicofarmaci. Ma poi scusi, mi segnala a chi? Dovete decidere se mandarmi in paradiso o all'inferno? Faccia meno la spiritosa, sa? Lo sa quanti danni cerebrali causano le droghe al cervello, specialmente nei giovani come lei? Ce l'avete un po' di rispetto per la vita? Scusi, non per dire ma mi sono appena ammazzata. Appunto. Ma perché poi, scusi? Ecco, guardi, ultima domanda. Motivo del decesso. Vediamo le varie opzioni, abbiamo detto tendenze depressive no, episodi psicotici nemmeno, perdita del lavoro no, crisi economica... Mai avuto un euro. Ok, quindi no, tradimenti, abbandoni no, no, abbiamo detto niente fidanzati, giusto? Amici ne ha, famiglia pure, ma le droghe dunque? Se le ho detto che non era una tossica. Ma scusi, quindi perché si è ammazzata? Cosa devo scrivere qua? Oddio, così su dei piedi è complicato. Non avevo voglia di vivere, punto. Non è che uno ha sempre un motivo specifico per ammazzarsi. No. Guardi, su questo non transigo. Lo spazio qui non può essere lasciato vuoto. E non avere voglia di vivere non è considerata motivazione sufficiente. Lei mi deve dare una valida motivazione di decesso. Se no, non posso mandare la documentazione e lei non può essere ammessa di là. Non mi rende il lavoro più complicato di quello che è. Ma io non lo so, qual è una valida motivazione? Signorina, abbiamo già perso una marea di tempo e non posso passare la giornata a fare dissertazioni filosofiche. Mi dica perché si è uccisa e se non lo sa... Scrivo tossicodipendenza e la chiudiamo qua. No, non voglio passare all'eternità come tossica, è falso. E poi non è il motivo per cui mi sono uccisa. Quindi? Ma che le devo dire? Ha visto come va la vita sulla Terra? Il mondo fa schifo, non le sembra una motivazione sufficiente? Ah, ma perché non lo ha detto subito? Motivazioni politiche. Bello, suona molto bene, eroico. Grazie futura, può andare, arrivederci. In realtà... O questo o la tossicodipendenza. Arrivederci. Va bene, vada per le motivazioni politiche. Brava, arrivederci. Arrivederci. L'unico consiglio è questo: invecchiate in fretta così la smettete di rompere i coglioni. Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita. È trendy dire sono bipolare. A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Se io potessi dare un consiglio oggi a un ragazzo di dire sbaglia. Allora dico, ma ragazzi, 18 anni, iniziate a lavorare, ma perché è sparito il mondo di voler fare impresa quando hai 18 anni e 20 anni? La formazione della classe dirigente dei prossimi anni, su che cosa si baserà? Che c'ha bisogno dei cassandre, abbiamo bisogno di soluzioni. Bentornati a Cassandra, il podcast che parla del futuro. ma non vi fa venire l'ansia? Quella che state ascoltando è la seconda puntata della seconda stagione. Come sapete, la domanda guida di questa stagione è questa, cioè quali sono le sfere di influenza della salute mentale e come rimmaginare un modo di pensare salute e malattia. In questa seconda stagione abbiamo deciso di parlare di tutto meno che di psicologia, cercando di osservare la questione da altri punti di vista. Ma oggi, per dei motivi che capirete tra qualche minuto, abbiamo deciso di ripercorrere alcuni dei momenti fondamentali della storia della psicologia. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del corpo, di come il corpo influenzi la mente nei suoi processi. Oggi invece ampliamo un po' la prospettiva. Facciamo un passo fuori di noi, fuori dal corpo, e ci guardiamo come corpi che si specchiano e che interagiscono tra di loro. Corpi che socializzano. Oggi in Cassandra parliamo di mente e società. Una delle cose che si sente spesso dire di Freud è che è stato il primo a dare importanza a quello che succede nella mente degli individui. Il primo ad ascoltare e validare ciò che le persone avevano il bisogno di tirare fuori, come si sentivano, i loro desideri più nascosti, le loro paure, la loro storia di trauma, eccetera. Ovviamente prima di Freud esistevano i neurologi che curavano i matti, ma erano medici che per lo più si occupavano di lesioni cerebrali. A nessun medico del 1800 sarebbe mai venuto in mente di parlare con un nevrotico per cercare di curarlo. L'idea di base della medicina dell'Ottocento era che la malattia mentale fosse causata esclusivamente da problemi organici. Per esempio, paziente psicotico uguale lesione della corteccia frontale. L'equazione era chiara. Paziente malato uguale lesione organica. Non c'era motivo di ascoltare, relazionarsi, conoscere la storia del paziente. Non importava cosa pensasse il suo cervello. Importava solo il suo cervello. Probabilmente lesionato. Fuori dalle grandi accademie, però, c'era anche molto altro. Le tecniche di cura dell'Europa ottocentesca erano molte. Saperi di cura popolari, situati, che si trovavano nelle campagne, ai margini delle città. Lì esistevano moltissime altre forme di cura della psiche e figure che si prendevano carico della cosiddetta follia con strategie opposte a quelle della medicina moderna, che stava nascendo nello stesso momento nelle università. La maggior parte delle volte questi saperi non dividevano la mente dal corpo e la mente dal contesto sociale. Infatti in questi contesti, lontani dalle città, mente, corpo e relazioni sociali erano spesso trattate come interdipendenti e tutte prendevano parte al processo di cura. In realtà, anche nella ferventissima borghesia ottocentesca, già prima dell'arrivo della psicanalisi, si cercavano modi di entrare in contatto con la parte inconscia e sepolta dell'io. Anche tra i più ricchi ricorrevano comunque strategie alternative per curare l'anima e per farlo in modo diverso rispetto alla medicina delle accademie. E quindi qui via a spiritismi, saperi esoterici, magia, ma anche letteratura, poesia e altre arti. Attraverso il magico da un lato e l'arte, l'artistico dall'altro, anche i ricchi trovavano il modo di esprimersi e di esplorare le parti più nascoste di se stessi. A questo punto però subentra Freud, medico e borghese. Freud probabilmente aveva notato le discontinuità pratiche e teoriche tra i saperi ufficiali della medicina moderna e quelli disseminati tra le culture popolari. Aveva forse intuito che non si poteva più ridurre tutto ad una lesione. Ma era anche convinto che si dovesse creare una scienza, con la S maiuscola, che si prendesse carico di creare un'unica grande teoria sulla mente umana. In questo consiste forse la rivoluzione freudiana, la nascita di una teoria solida, robusta, scientifica, che spiegasse cosa risiede nella psiche degli esseri umani. Per questo Freud è diventato un simbolo della cultura moderna. Non perché sia stato il primo ad avere un approccio dialogico, in ascolto e sensibile ai bisogni primari del paziente, ma perché è stato il primo a sfruttare e proporre le sue teorie sulla psiche umana nei due contesti più influenti della società moderna, il contesto borghese e il contesto scientifico-accademico. La storia dell'Europa è sempre stata la storia delle sue classi dominanti. Tuttora in psicologia si parla molto poco di appartenenza di classe. Si parla poco del fatto che i modelli su cui è nata la psicanalisi non sono modelli universali, nonostante avessero la pretesa di esserlo. Le famiglie dei pazienti che studiava Freud, cioè ricche, colte e con la servitù in casa, non erano allora e non sono tuttora le famiglie di tutte. È proprio per questo motivo che le teorie di Freud e molte delle teorie psicologiche contemporanee sono sbagliate, a volte dannose. Fare ricerca scientifica, infatti, significa fare ricerca situata, indagando una popolazione di riferimento con le sue caratteristiche e i suoi limiti. Non è possibile pensare che una teoria generale possa spiegare la complessità che rende unici miliardi di persone. È invece importante ricordare che queste grandi teorie unificatrici possono essere a volte controproducenti e hanno degli effetti collaterali a volte. Nel tentativo di creare un modello teorico di individuo, la psicanalisi ha prodotto un nuovo paradigma sociale. Come accade troppo spesso, è stata la teoria ad influenzare la pratica e non viceversa. A proposito di appartenenza di classe, Freud comunque non era certo un morto di fame. Apparteneva ad una famiglia ricca e borghese di commercianti. Le genealogie della famiglia Freud però ad un certo punto si intrecciano con quelle di un'altra famiglia, ricchissima e ancora più influente nella storia dell'Ottocento, la famiglia Bernays. This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy. Adam Curtis è un documentarista inglese, autore di un documentario che si chiama The Center of the Self. E i primi due episodi del documentario sono quasi completamente dedicati ad un membro molto famoso della famiglia Bernays, che è anche un membro molto famoso della famiglia Freud, che si chiama Edward Bernays. Curtis nel suo documentario si interroga su come la storia della psicologia durante il 1900 si sia interfacciata con la questione del potere sociale, soprattutto del controllo delle masse. Per fare questo parte proprio dalla vita di Edward Bernays. La vita di Bernays è interessante perché quest'uomo, giovane di una famiglia ricchissima e importante, era il nipote di Freud ed è passato alla storia come uno dei più importanti teorici e fautori delle public relations. Bernays era un consulente per privati e per enti pubblici. Si occupava prevalentemente di migliorare l'immagine dei suoi clienti per far salire la loro popolarità. Lo faceva sia per le aziende, per la vendita di prodotti, che per i politici, per migliorare i gradimenti nei loro sondaggi elettorali. La cosa che al regista interessa di Bernays, però, è il suo rapporto con suo zio, Sigmund Freud. In un momento in cui le teorie della emergente psicanalisi non erano ancora approdate negli Stati Uniti, Bernays prende le teorie elaborate dallo zio e le applica a tecniche di marketing e di controllo, diventando di fatto un esperto di propaganda. In particolare, Bernays rimane affascinato dalla teoria dell'inconscio. Secondo Freud, infatti, l'essere umano è abitato da forze inconsce, primitive, aggressive, sessuali e primordiali che vanno represse e controllate. Bernays intuisce che le emozioni irrazionali di cui parla lo zio possono essere ridirezionate per condizionare le scelte di consumo. Siamo nel 1929. Negli Stati Uniti le donne non possono fumare in pubblico. Per le multinazionali del tabacco, questo significa la perdita di un'enorme fetta di mercato. La Philip Morris, nel frattempo, promuove una serie di lezioni per insegnare alle donne l'arte del fumo, come tenere in mano una sigaretta e ispirare correttamente. Ma la vera svolta arriva quando l'American Tobacco Company chiede ad Edward Bernays di creare una campagna pubblicitaria che aumenti il numero di donne americane fumatrici. Siamo nel periodo delle suffragette e delle lotte per l'indipendenza femminile. Bernays intuisce che deve riuscire a convincere le donne che fumare sia qualcosa di utile per la loro emancipazione. Allora decide di ingaggiare delle attrici che durante una famosa parata nelle strade di New York accendono delle sigarette e le fumano a favore di telecamera, filmate da giornalisti chiamati dallo stesso Bernays per immortalare la scena rivoluzionaria. Il giorno dopo, le prime pagine dei giornali grideranno ad una grande rivoluzione, le sigarette, torce della libertà, accese per l'emancipazione della donna. Oltre alla campagna delle torce della libertà, Bernays è passato alla storia per aver introdotto nel mondo delle pubblicità alcune delle idee più efficaci, così efficaci da resistere ancora oggi. Infatti Bernays ha inventato l'associazione pubblicitaria tra automobile e virilità, per esempio, e travestiti ed espressione della propria unicità, cioè del proprio stile. Bernays è stato anche il primo a convincere le aziende che la psicologia poteva essere usata per aumentare le vendite, incoraggiando il consumatore a comprare prodotti che affermavano la sua identità. Ed è proprio a questo punto che, secondo Adam Curtis, inizia quella fase del capitalismo in cui diventi quello che compri. Identità e consumo si condizionano reciprocamente. Sei quello che consumi. In un'intervista, Bernays commenta l'influenza che ha avuto sulla nascita delle public relations, dicendo: «Se puoi usare la propaganda in tempi di guerra, la puoi usare anche in tempi di pace». Propaganda era diventata una parola negativa, per via dei nazisti. Quindi abbiamo dovuto inventare una nuova parola per definirla. E questa parola era public relations. When I came back to the United States, I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. And propaganda got to be a bad word because of the Germans. So we found the word Council on Public Relations. conmigo, no hablen por mí. Soy queen desde que nací. Niña, ¿qué me va a decir? El carne todo pa' ti. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. Negli anni 50, dopo solo qualche decennio, le teorie embrionali della psicanalisi freudiana sono già cambiate. Adam Curtis, nel documentario, si concentra in particolare su Reich, ex allievo di Freud, poi allontanato e rinnegato sia da Freud che dalla figlia Anna. Reich sosteneva che l'energia primitiva, inconscia, dell'essere umano non fosse negativa e pericolosa di per sé, come sosteneva invece il suo maestro. Per Reich, infatti, l'inconscio non era pericoloso, ma lo diventava se veniva represso. Le energie, che erano soprattutto sessuali, secondo Reich andavano liberate per guarire dalle nevrosi. Reich sosteneva che Freud fosse figlio delle sue teorie, un nevrotico, che non poteva certo guarire gli altri con la sua presunzione. Reich rimane comunque un personaggio un po' ambiguo, che ad un certo punto si perderà in un mix fra teorie del complotto, derive yuppie, meglio lasciarlo qui. Reich però interessa a Curtis perché sarà da lui, dal suo colpo di reni contro l'egemonia freudiana, che la storia dell'Occidente cambierà ancora. Negli anni 50, negli Stati Uniti, la parola chiave diventa unleash, lasciare andare, liberare, buttare fuori. Mentre per la prima ondata di psicanalisti l'obiettivo era controllare le forze dell'inconscio, da questa nuova generazione emerge l'idea di dover liberare ciò che, nella classe medio-borghese, è stato represso per decenni. Anni 60, un decennio dopo, arriva in America un grande momento di fermento politico. Nei campus universitari nascono collettivi che lottano contro la guerra in Vietnam, contro il capitalismo del consumo. Movimenti che denunciano la propaganda messa in atto dal governo americano, che se da un lato promuove la libertà di mercato, dall'altro compie massacri in Vietnam. Vendere prodotti e vendere ideologie sono due lati della stessa medaglia. Le lotte degli anni 60 vengono represse nel sangue. Alcune delle frange più hippie di questi movimenti, disillusi, cominciano ad allontanarsi dalle lotte politiche, per ripiegarsi su ciò che potevano meglio controllare, se stessi. Nasce l'idea che la rivoluzione sociale arriverà solo attraverso la rivoluzione dell'io. Una società migliore arriverà solo se creiamo individui migliori. And you go and you become selfish. Yeah, exactly, selfish. Ooh, what a scary word. Everybody's scared of the word selfish. But you know what? Being selfish literally saved me completely. È un nuovo periodo florido per la psicanalisi, soprattutto per alcune frange più yuppie. I gruppi terapeutici vengono usati addirittura per cercare di risolvere alcune questioni sociali, come la questione razziale. Sessioni terapeutiche di bianchi e neri che cercano di liberarsi dai loro sentimenti di odio più nascosti. Gruppi che ovviamente falliscono miseramente. Nello stesso momento, la psicologia viene usata sempre di più nelle aziende per fare predizioni di mercato. Una nuova generazione sta emergendo. Sono giovani dalle idee liberali, progressisti ma non più interessati alla lotta verso lo Stato e che, dicono i dati, hanno un grandissimo bisogno di esprimere chi sono. Sono clienti poco prevedibili, perché più difficili da inquadrare rispetto alla generazione dei genitori. Non fanno assicurazioni sulla vita, sembrano poco interessati al consumo di massa. Grazie all'uso estensivo dei focus group, tecnica presa dalla psicologia e adattata alle indagini di mercato, le aziende, insieme a team di psicologi, definiscono un nuovo tipo di consumatore. Il consumatore ego-riferito. Sono consumatori definiti non tanto dal loro ruolo nella società, ma dalle scelte che fanno e dal loro bisogno di essere riconosciuti socialmente come gruppo nuovo. Sono consumatori che non vogliono comprare un oggetto, ma un'idea e soprattutto uno stile di vita. Nasce il lifestyle marketing. Nasce un capitalismo che ti permette di trovare ed esprimere il tuo unicissimo e particolarissimo io, che rinforza l'idea che siamo tutti individui unici ed irrepetibili e che la nostra individualità deve essere validata e rinforzata da prodotti di consumo. Hipsters are people that try too hard to be different and generally do think that they are being different by rejecting anything they deem to be too popular. Ironically, so many more other people also try too hard to be different that they all wind up being the exact same. So hipsters aren't actually different at all. They're just people that are snobbier and more annoying about their taste in alternative things, which are all popular now thanks to the other hipsters. Hipsters pride themselves on liking things that no one else likes, and normally only really like them because they think no one else likes them and that they're being unique. This is being delusional because all the other hipsters also like the same things. That he could be happy and fully self-developed on his own. Socialism in one person. Although that, of course, is capitalism. Il capitalismo che struttura la società di consumi riesce a sfruttare quotidianamente i meccanismi della nostra psiche per farci comprare, consumare e desiderare. È un tema di cui abbiamo ovviamente già parlato in altre puntate, ma stavolta ci interessava ripercorrere, anche se in un modo ovviamente molto sommario, il dialogo che le scienze del controllo sociale hanno spesso intrapreso con la psicologia. Dei molti studiosi che hanno dedicato la loro vita a creare dei modelli di vendita che sfruttassero la psicologia del consumatore, Bernays è solo il primo, è solo un pretesto narrativo. In qualche modo, il loro lavoro ha prodotto un nuovo modello dominante d'individuo, che ci struttura e prepara ad essere consumatori funzionali. La costruzione dell'identità personale dipende dal contesto, dalle relazioni e dalla condivisione di informazioni con l'ambiente. E ciò che ci circonda è strutturato secondo il paradigma socio-economico capitalista. Il capitalismo intercetta le nostre vite dalla culla prenatal alla tomba costruita alla TAF Funeral Service. E quindi siamo ancora qua a dire che il capitalismo fa male alla salute mentale, come sempre. Questa volta però non ne facciamo una questione di un sistema esterno che si scontra con il nostro benessere, ma volevamo sottolineare come la psicologia, come scienza, si sia spesso anche coordinata con le tecniche del capitalismo per rendere la nostra stessa psiche complice del gioco consumista. C'è poi il discorso di classe, come dicevamo. La psicanalisi è nata in un contesto borghese e ha avuto così tanto successo all'inizio anche per questo. Tutto questo dovrebbe farci riflettere sulla direzione intrapresa dalla psicologia contemporanea. Non è un caso che in Italia, come in moltissime altre parti d'Europa, la psicologia sia ancora un bene di lusso, privatizzato, accessibile a pochissimi, e anche quando diventa un obiettivo dello Stato rendere pubblico l'accesso alla terapia psicologica, i poveri non possono comunque decidere e devono accontentarsi di una manciata di sedute. Se tutto questo non è abbastanza per capire che la psicologia deve affrontare il discorso di classe, pensiamo a quanto la storia che abbiamo appena ripercorso brevemente dimostri che la psicologia è stata a volte complice e ha contribuito a creare l'individuo moderno, performativo, consumatore, indipendente, narcisista ed estremamente centrato sul proprio sé interiore. One in the single and the first degree, one above, one for eternity. No unit or triad, source or cost, for the one super oneness is the one above those. One in the single and the first degree, one above, one for eternity. No unit or triad, source or cost, for the one super oneness is the one above those. E siamo giunte alla fine di questa puntata di Cassandra. Avete ascoltato la seconda puntata della seconda stagione in cui abbiamo parlato di mente e società. Ringraziamenti. Allora, ringraziamo intanto Deborah Benincasa e Marco Gottardello di Anomalia Teatro di Torino per averci prestato le voci per il dialogo iniziale. Ringrazio personalmente Anita per avermi intanto introdotto con la sua enorme cultura documentaristica al lavoro di Adam Curtis ormai quasi 3 anni fa in quarantena e per averci prestato la voce per la definizione di hipster di Urban Dictionary. Lo sappiamo che vi siete rivisti in questa definizione. Ovviamente ringraziamo Adam Curtis, anche se non lo saprà mai, per il materiale che abbiamo preso dal suo incredibile lavoro di archivistica. In questa puntata avete ascoltato Winobi Machine degli Onipa, YPA di Muove Lorena, Undercover on the Diamond Floor di Mononeon e One Above One di Vitalik, che state sentendo sotto la mia voce in questo momento. E anche per oggi è tutto, Cassandra vi saluta, ci becchiamo al prossimo trip streamato dalla Me del Futuro.